Si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. You say you want a revolution. Well, you know we all want to change the world. You tell me that it's evolution. Well, you know we all want to change the world. Io credo che in Europa debbano entrare delle democrazie decenti anche dal punto di vista formale. Qui invece siamo di fronte a un Hitler novello che si comporta esattamente come il vecchio Hitler e io sinceramente non ci berrei neanche un caffè insieme. Buonasera a tutti cari ascoltatori, 18 e 34 minuti, inizia una nuova puntata di Si può fare, 800 24 00 24 per intervenire in diretta fino alle 20. Continua, pesante, avete sicuramente sentito in giornata le notizie che vengono dalla Turchia, la repressione pesante, pesantissima del governo e di Erdogan. Non si contano più ormai i professori universitari di scuola allontanati, sospesi, non si sa neanche bene cosa vuol dire allontanati, sospesi degli insegnanti, che cosa possano avere a che fare con un golpe militare, è difficile capirlo. Vi aspettiamo 800 24 00 24 per commentare tutte le notizie di giornata, per stare insieme. Ancora, voci di giornata, vai! Quei padiglioni che possono essere durevoli almeno per altri 10 anni non devono essere abbattuti, devono essere i luoghi dove gli stati ricchi consentono di vivere in una città metropolitana a quelli che vengono affibbiati un po' alle città che abbiamo viste, un po' a Brindisi, un po' a Padova, 20.000, cioè 5.000, 3.000, lì ce ne possono stare 200.000, in un'area che diventa la città dei migranti. Vittorio Sgarbi sicuramente è un genio, ma ultimamente sta perdendo, secondo me, il tocco magico. Pensate che cosa potrebbe essere l'area di Expo per la quale si sta discutendo in questi giorni, con un ritardo strepitoso del governo sicuramente su cosa farci, cosa non farci, il polo tecnologico eccetera, se spostarci l'università statale, i campus dell'università statale, che cosa potrebbe essere se ci si affollassero 10, 20, 100, come dice Sgarbi, fino a 200.000 profughi tutti insieme. Una bomba, una vera e propria bomba sociale. A Roma invece sono tornati i centurioni, scaduta l'ordinanza del prefetto Tronca, l'ordinanza antiabusivismo, il sindaco della capitale Raggi ha detto adesso le firmo, le rinnovo le ordinanze, però visto che sono scadute quelle vecchie si sono rivisti in giro i centurioni, 300 euro al giorno secondo alcuni si guadagna. E quindi adesso mi recherò nel mio studio e firmerò le due ordinanze, quelle relative insomma ai centurioni e ai risciò. Ieri invece in giunta abbiamo approvato un'ordinanza molto importante, che era quella relativa alla determinazione della sanzione per questa attività. Ho tanti anni che di servizio che vengo in questa piazza, non ho dato mai fastidio a nessuno, anche i vigili che vengono non mi hanno mai dato un rimprovero, mai niente. E ritengo ingiusto questa cosa che è in atto. Questo era uno dei centurioni, uno dei tanti, forse ne sentiremo uno anche noi questa sera in forma più o meno anonima, perché è chiaramente un lavoro illegale. Insomma, sentono aria di cambiamento, forse un'aria che cambia, pensano che la nuova giunta, insomma la nuova amministrazione pentastellata possa essere più intransigente di quanto avvenuto in passato, e quindi adesso chiedono per esempio una sanatoria, che si faccia un albo dei centurioni. Io sono 20 anni che faccio questo mestiere, ho 35 anni, ho cominciato, avevo 15 anni, non ho mai avuto un problema né con i turisti né con le forze dell'ordine e né con nessuno. Allora, io non ho ancora volato con l'Alitalia negli ultimi tempi, non che voli spessissimo, però, cari ascoltatori, se vi è capitato, ci dite che effetto vi fanno le vecchie hostess con le nuove divise dell'Alitalia, di cui si è molto discusso, l'Alitalia che è passata in mano medio orientale, in mano arabe, e qualcuno dice che le nuove divise delle hostess dell'Alitalia sono troppo coperte. In effetti guanti, cappelli, calze ci sono, almeno nelle foto, però vi chiedo, voi che le avete viste all'azione, che effetto vi fanno? Il primo giorno che sono rientrata in aeroporto ho visto le hostess, le nuove divise, sì. Mi è preso un colpo perché ci siamo molto concentrati sul colore delle calze, non ci siamo concentrati sul fatto che comunque queste hostess oggi appaiono un po' islamizzate rispetto alla, diciamo, dice, alle divise, loro divise, ai guanti, precedente, alla copertura del capo, a cose che comunque nel nostro paese, come dire, a me ancora fanno paura. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Allora, diamo la buonasera da Istanbul a Giovanni Amadore, un professore universitario, direttore del Dipartimento di Italiano all'Istituto Scolastico Evrim di Istanbul, su Skype. Buonasera. Buonasera. Un nuovo amico di Radio 24, diamo la voce anche a persone meno note, insomma, a qualcuno che normalmente non fa l'opinionista, il commentatore, però lei è una figura importante, un professore italiano, lavora da quanti anni a Istanbul? Io dal 2002 che sono qui a Istanbul. Quindi, ecco, insomma, Istanbul, sono già diversi anni. Abbiamo voluto prenderla così, con una citazione musicale importante, anche un po' inquietante, The Wall, perché noi dall'Italia, dall'Europa, stiamo assistendo a quello che accade in Turchia, tramite le notizie che arrivano, le foto, le immagini, gli articoli di giornale, quello che si riesce a raccontare, così, con questo senso di ansia per questa repressione, più per la repressione post-golpe che non forse per quello che è accaduto venerdì sera, per questo strafalcione, questo tentato golpe che è durato poche ore. Intanto le chiedo cosa sta accadendo nelle scuole di Istanbul, dove ci sono migliaia di professori, di docenti che vengono sospesi dal loro incarico. Che vuol dire sospesi? Innanzitutto vorrei partire da una considerazione un po' critica anche rispetto a alcune notizie che ho sentito e ho letto. Qualcuno in Occidente ha detto che ha supposto che questo in verità non sia stato un vero, sì, un finto golpe, un golpe auto-organizzato da Erdogan, addirittura diretto dagli Stati Uniti, eccetera, eccetera. Lei invece crede alla tesi del golpe vero? No. Personalmente non credo che si arrivi a auto alimentare un golpe simile. Non credo che, io credo che ci sia stato il tentativo, ma d'altra parte, per chi conosce un po' la storia, non è una novità, certo. Ce ne sono stati altri quattro almeno di tentati colpi di Stato. Qua ci sono dei punti interrogativi, sicuramente il fatto che una riedizione, così come accaduto negli anni 70 e 80, senza un'evoluzione forse, la velocità, la rapidità con cui è stato risolto, ma questo è quello che è accaduto. È importante dal suo punto di vista sottolineare, c'è stato un colpo di Stato, quindi adesso la reazione da parte parte del governo, in qualche modo lei mi sta dicendo si è aperta una strada per una reazione, questo sì. Sì, sì, sì, sicuramente sì, la reazione appare in questo momento forse, anzi sicuramente un po' troppo dura, un po' troppo a livello di come si dice, purghe che ci rimandano a altre situazioni. Sicuramente io credo che per comprendere bene quello che è successo e sì. Ancora oggi stiamo vivendo qui, bisogna contestualizzare un attimo la situazione turca, il conflitto fra l'anima laica ataturchiana della rivoluzione del 1920 e una cultura musulmana conservatrice c'è sempre stata nella storia turca. Sì. E il paradosso è che per 80 anni i militari che si dice la tradizione nostra dell'Occidente e i militari sono sempre stati. Va bene, però modo... professore, le chiederei di fare un passo in avanti, mi scusi se intervengo a gamba tesa, perché il ruolo dei militari, si sono scritte tante pagine, i nostri ascoltatori sicuramente hanno le loro opinioni, lei giustamente ci sta dando anche delle informazioni, però veniamo ad oggi, no? Che aria si respira in giro per Istanbul? Cioè ci sono per esempio manifestazioni a sostegno di Erdogan, ce ne sarà forse anche una questa sera a Piazza Taksim. Qualcuno però teme che questa esuberanza possa diventare una pressione a sua volta nei confronti della solita minoranza, forse di laici o comunque di persone che sono gli oppositori del governo. Sì, no, il rischio oggi c'è. Questa mattina il consolato c'è stato un incontro e il messaggio che i consolati nostri danno è quello di rassicurare molto le persone. La situazione non è assolutamente facile, il rischio di coinvolgimenti o rigurgiti conflitti sicuramente c'è. Non bisogna, d'altra parte, secondo me, farsi prendere troppo da il panico. Al momento io ho sentito anche altre persone che vivono e lavorano lì, si vive, si va avanti, si lavora tranquillamente. Non è che ci siano stati dei cambiamenti radicali nella vita delle persone medie in Turchia o a Istanbul, parliamo delle persone che conosciamo noi. Però sull'aspetto, adesso facciamo una piccola pausa di 30 secondi, poco più per il traffico, professore, su quello che sta succedendo nelle scuole, nelle università, vorrei un suo punto di vista, visto che lei è docente lì a Istanbul, perché migliaia e migliaia di docenti sospesi, che non si capisce nemmeno cosa voglia dire sospesi dal loro incarico e che cosa possano avere a che fare dei professori di scuola con un golpe. Questo vogliamo cercare di capirlo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. We don't need no education. Allora, di nuovo in collegamento da Istanbul con il professor Giovanni Amadori, direttore del Dipartimento Italiano dell'Istituto Scolastico Evin di Istanbul. Professore, le dico quello che sono le notizie diffuse per esempio dalla CNN turca, perché questa è la fonte. Oggi il Ministero dell'Istruzione avrebbe sospeso altri 6.538 dipendenti dopo i 15.000 già allontanati martedì e 21.000 di cui è stata ritirata la licenza per insegnare nelle scuole private. Che cosa sa lei di tutto questo? Allora, le notizie ancora sono qui, in Turchia c'è molta confusione. sì, mi scuso se ancora una volta devo contestualizzare, ma il rapporto fra il potere politico turco e la scuola è sempre stato un rapporto difficile, molto molto difficile. Basta ricordare che il colpo di Stato del 71 i rettori vennero destituiti tutti, completamente tutti, per cui sì, però questa non può essere la norma di un paese democratico e civile, no? Non può essere questa la, almeno io credo, la regola. Sì, assolutamente, assolutamente, ci mancherebbe altro. Democratico è un termine sul quale bisognerebbe riflettere un attimo, nel senso che rischiamo sempre di utilizzare quadri mentali che in Occidente hanno significato, ma, sì, ma chi sono questi professori che sono stati allontanati, sospesi? Se ne ha un'idea? Cioè, dice che siano quelli che professavano, in qualche modo seguivano le ideologie di Fethullah Gulen, il predicatore esule autoesiliatosi in America, quindi una sospensione per ragioni ideologiche, è possibile? Sì, il rischio è che in questo momento, il grande rischio oggi è che la situazione permetta al governo turco di colpire indiscriminatamente anche persone con posizioni non vicine a, come si chiama, a Fethullah, ma che invece hanno posizioni di tipo qui si dice laico, liberale. Questo è il grande rischio. Il grande rischio è che, come è successo spesso, qui si sfruttino situazioni simili per colpire un po' a destra e un po' a sinistra. Sì, sì, stiano regolando tanti conti, questo sicuramente si è detto. Lei personalmente ha un po' paura? Ha paura a girare per strada? No. Si sente tranquillo? No. Si sente tranquillo? Assolutamente, assolutamente. Cioè, cerchiamo comunque. Ci sono dei cambiamenti visibili in giro per strada, oppure, oppure no? Tutto sommato, no. Più controlli, meno controlli. Le facce delle persone sono cambiate, non sono cambiate? No, c'è una cosa un po' strana. C'è questa milizia nuova di cui non si sa nulla, che però fermano le persone, ti controllano il cellulare, fanno queste cose qua, ma si tratta ancora di episodi molto marginali, non siamo di fronte a controlli a tappeto. No, va bene, cose che possano in qualche modo cambiare radicalmente lo scenario. Io la ringrazio, professore Amadori, devo dire che sono sicuramente ore non facili, concitate, mettetela come volete. Abbiamo fatto un'intervista su Skype con un professore italiano che sta a Istanbul cercare di mettere in luce qualche concetto, soprattutto per quanto riguarda la repressione nel mondo delle scuole. L'ultima notizia è questa: il Ministero ha annunciato di aver chiuso 626 scuole pro Gulen, quindi diciamo scuole che seguono il predicatore autoesiliatosi in America, un ex alleato di Erdogan, scuole per la maggior parte si tratterebbe di scuole private. Non è facile rendere il clima, le notizie che arrivano dalla Turchia usando la voce diretta di chi vive lì. Mettetevi nei panni di chi ci sta, non è semplice. Più facile sarebbe stato chiamare un analista o qualcuno che da qua parla, senza però avere vissuto e visto direttamente granché. Quindi questo è stato il tentativo che abbiamo fatto. Andiamo con gli ascoltatori. Angelo da Lodi, buonasera. Buonasera, buonasera. Prego. No, volevo fare una piccola considerazione sull'intervento di D'Alema del Ministero. Sì. Tendendo un dio pietoso sulla professionalità dei due giornalisti che l'hanno intervistato. Perché a fronte della disquisizione sulle quattro banche fatte da D'Alema, eccetera, qualcuno avrebbe potuto obiettare che c'è un caso MPS, MPS insieme alla sinistra con D'Alema a capo. Sì, vabbè, però adesso quindi, D'Alema sono dichiarazioni di ieri, quindi siamo andati un po' indietro, cerchiamo di andare avanti. Grazie. Lia da Palermo, buonasera. Lia, buonasera, grazie, benvenuta. Grazie, grazie per aver dato la possibilità di esprimere il mio parere di psichiatra, come mi definisco io, anziana. È forse il caso di analizzare attentamente tutto quello che sta accadendo, non soltanto da un punto di vista economico, sociale, politico, ma anche da un punto di vista strettamente psichiatrico. E io credo che bisogna iniziare a parlare di paranoia. Questo termine, che è una diagnosi, naturalmente è una diagnosi molto seria, che ha a che fare col delirio lucido e sistematizzato, purtroppo non viene utilizzata. Ma lei sta parlando di chi sta parlando? Di Erdogan? Naturalmente sto parlando di lui perché è l'ultimo paranoico, ma non è il primo. Abbiamo perché avuto è paranoico secondo lei Erdogan? Cosa lo vede? No, non è che lo vedo, non lo conosco bene, ma chiunque ha un progetto così malefico, qualsiasi sia il suo obiettivo, anche economico, ma dietro una lucidità che prevede tutto quello che lui sta facendo, i fatti, Hitler comunque è stato un paranoico, non abbiamo bisogno di pensarci tanto, comunque di ragionarci tanto. Il punto è che questa parola non viene utilizzata e che troppo spesso, ahimè, voi giornalisti, ma in particolare a me piace parlare con voi perché vi stimo veramente tanto. Vabbè, Lia, lei dice che bisognerebbe usare questo argomento, che è pre-politico, non so come dire, cioè non tanto entrare nelle discussioni nel merito di cosa fa, ma dire che è un pazzo paranoico. Però bisogna parlare anche di quello che fa questo pazzo paranoico, del seguito che ha in Turchia. Volevo, mi perdoni solo una parola, allargare un attimo e chiedere a voi giornalisti competenti di non parlare sempre solo di depressione. Ecco, viene utilizzata a sproposito una diagnosi che è la depressione, anche quando depressione non Ma che c'entra questo con Erdogan? Scusi, non ho capito. No, allora, c'entra perché tra un po', appena qualcuno tirerà fuori una diagnosi, questa diagnosi in qualche modo entrerà dentro questa parola depressione, come è stato per il pilota dell'aereo. Vabbè, non lo so se avverrà questo, Lia. Non lo so, grazie Lia, non lo so se avverrà questo. Secondo me mi ha messo insieme un po' di cose, ha fatto un po' di confusione, nel senso che sicuramente per uno psichiatra è importante che si distinguano le varie malattie mentali, ma qui stavamo parlando di un'altra cosa. Lei almeno ha iniziato a parlare di Erdogan, che è un altro argomento. Andiamo con Cristiano da Milano, buonasera. Buonasera, io volevo tornare alla politica italiana, se possibile, anche se non è di strettissima attualità, però insomma, ne abbiamo discusso ieri. Volevo parlare di referendum e di riforme istituzionali. Volevo fare una considerazione che mi sembra sfugga un po' al dibattito, che però a mio parere è centrale. Cioè, queste riforme nascono esattamente 2 anni fa in una situazione di Parlamento bloccato, in cui fu chiesto a un Presidente della Repubblica ultraottuagenario, quasi implorato, di il blocco, l'impasse e poi il compromesso. E il compromesso. E tra l'altro il Presidente e questa della riforma è frutto del compromesso. Assolutamente, Cristiano, è una riforma, a mio parere è una riforma che ha un sacco di aspetti discutibili, ma io la voterò. Devo dare la linea al Giornale Radio, grazie, ci risentiamo subito dopo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Say you want a revolution. Well, you know. We all wanna change the world. L'impegno formativo di Forza Italia per il no. Abbiamo predisposto dei gazebi virtuali da mettere in rete, dei banchetti, dei gazebi, dei desk virtuali con tutte le domande, le risposte, gli argomenti per rispondere a tutta la popolazione che ci chiede lumi sul referendum costituzionale, un bel no per mandare a casa Renzi, un ciaone a Renzi e a tutti i suoi e cancellare le sue schiforme. quegli neologismi linguistici di Renato Brunetta, le schiforme e ciaone a Renzi. Ciaone vuole dirlo il sindaco di Roma Raggi ai centurioni che sono tornati dopo che è scaduta l'ordinanza anti-centurioni che prevedeva anche delle multe fino a 400 euro per gli abusivi davanti al Colosseo. Adesso la Raggi promette la linea dura. Sentiamo le voci di questi che dicono: ma siamo qui da tanti anni, cosa dobbiamo fare? Non abbiamo un altro lavoro, in questi mesi di ordinanze siamo andati a fare l'elemosina. Però qualcuno dice che si guadagna fino a 300 euro al giorno facendo il centurione. Ho tanti anni che di servizio che vengo in questa piazza, non ho dato mai fastidio a nessuno. Anche i vigili che vengono non mi hanno mai dato un rimprovero, mai niente. E ritengo ingiusto questa cosa che è in atto. Riuscirà mai Roma, cari ascoltatori, all'800 24 00 24, ve lo chiedo questa sera, a voltare pagina da questo punto di vista, a veramente a farla finita con le migliaia di abusivi che stanno intorno al centro storico, ai monumenti, al Colosseo, non solo, ai fori imperiali, eccetera, eccetera, a regolamentare? Qualcuno propone l'albo dei centurioni. Sembra una follia, perché uno dice: cosa sono, liberi professionisti, dipendenti della sovrintendenza? Non si sa, non si capisce che titoli si devono avere per fare il centurione, per mettersi la divisa dell'antica Roma e stare davanti al Colosseo a farsi la foto col turista. Che titoli bisogna? Forse bisogna essere delle guide turistiche, forse stiamo esagerando, stiamo impazzendo tutti. Però l'abusivismo non è possibile, non è tollerabile, c'è una concorrenza spietata, sono sempre di più gli abusivi perché si guadagnano bei soldini. 800 24 00 24, vi chiediamo anche di dare il vostro giudizio sulle divise, le nuove divise dell'Alitalia che secondo Renata Polverini sono una forma di islamizzazione. Il primo giorno che sono rientrata in aeroporto ho visto le hostess, le nuove divise, sì. Mi è preso un colpo perché ci siamo molto concentrati sul colore delle calze, non ci siamo concentrati sul fatto che comunque queste hostess oggi appaiono un po' islamizzate rispetto alla, diciamo, dice, alle divise, loro divise, ai guanti, precedente, alla copertura del capo, a cose che comunque nel nostro paese, come dire, a me ancora fanno paura. L'altro luogo, che è un luogo fisico, ma è un luogo urbanistico, io l'ho proposto per primo, quando andò per chiudere, come il luogo di accoglienza ideale di una grande città ricca d'Europa, con le strutture e le infrastrutture pronte ad accogliere almeno 200.000 persone, che si chiama Expo di Milano. Non lo so, ditelo voi, cari ascoltatori, questo programma si chiama Si può fare. Si può fare di mettere 200.000 profughi nell'area dell'Expo? Ci starebbero, secondo Sgarbi, un uomo mediatico geniale, sicuramente, inventore di tante idee, di tante provocazioni. Sì, le provocazioni vanno bene, ma non sono cose mai che possono essere messe in pratica. E c'è qualcuno che ancora continua a chiamarlo per fare l'assessore, cioè per fare le cose concrete. L'ha chiamato Sgarbi solo per parlare e fare delle proposte, non per fare delle cose concrete, perché non lo so, dite voi, 800 24 00 24, cosa succederebbe se davvero nell'area dell'Expo, se qualcuno prendesse sul serio questa proposta di Sgarbi e si mettessero 10, 20, 100, fino a 200.000 profughi, tutti concentrati in un solo posto? Non oso neanche immaginare cosa potrebbe succedere. Allora, andiamo con chi abbiamo in linea. Ibrahim da Torino, buonasera. Sì, buonasera. Prego. Sì, salve. Allora, il mio intervento era per Salvini, che si prende per le moschee. Prima cosa, tempo fa Salvini faceva i comizi proprio alle moschee per prendere i voti, che c'ho già anche la foto, ve l'avevo già mandata 4 giorni fa su WhatsApp. E adesso si prende contro le moschee. Penso che questa cosa si chiama ipocrisia. Poi, vabbè Ibrahim, però questo non è un argomento nuovissimo, devi dire qualcosa di più attuale? Vabbè, per questa cosa era per Salvini. E quello che volevo dire, sì, anche per Erdogan. Sì. Erdogan è proprio è un governo, è anche una persona, è stato eletto democraticamente. E sì, c'ha tutto il diritto, perché c'ha il consenso del popolo, di fare ciò che vuole. Perché La pena di morte non è lui che la vuole decidere, ma proprio la vuole decidere il popolo. Il popolo quindi vuole la pena di morte. Il popolo può darsi, Ibrahim. È vero che le elezioni sono state fatte, non ha avuto la maggioranza, allora sono state rifatte fino a che ha avuto la maggioranza. Quindi si può cominciare ad avere anche qualche dubbio. Sicuramente il fatto che Erdogan sia stato eletto democraticamente più di una volta è un argomento a suo favore, però quello che sta succedendo adesso in Turchia, che è la reazione a un colpo di Stato, sicuramente quindi una reazione forte, anche emotiva, giustificata agli occhi della gente, perché ci sono stati 200 morti a Istanbul nella notte di venerdì, quindi adesso sembra tutto possibile, però non è un bello spettacolo. Non so se sei d'accordo, Ibrahim, migliaia di docenti sospesi nelle scuole, cosa c'entrano gli insegnanti col golpe? Sta succedendo così perché nemmeno Erdogan o il popolo non vuole vivere quello che stiamo vivendo in Egitto, perché se fosse stato fatto questo golpe, no, ma il golpe era sbagliato, su questo io personalmente, ma credo è stato detto da tutti, insomma anche gli oppositori di Erdogan in Turchia, nessuno era favorevole al golpe. E poi tutta la gente sta dicendo che è una dittatura. Non è vero che è una dittatura. Ma sospendere migliaia di insegnanti dal loro incarico, cosa c'entra questo col golpe? Ma sono indagati. Sì. Sono indagati, quindi è va tutto bene, Ibrahim, va tutto bene a Istanbul in questo momento, va tutto bene, tutto regolare. Ma è regolarissimo, quello è regolarissimo quello che sta facendo, è tutto a norma di legge e c'ha tutto il diritto di farlo. Beh, tutto a norma di legge non lo so, perché arrestare migliaia di militari senza un mandato di un magistrato, senza un processo, è giustificato secondo alcuni come reazione al colpo di Stato, ma non è a norma di legge, Ibrahim, perché non esiste una legge. Ma quelli andranno giudicati se sono indagati, se hanno fatto qualcosa. Andranno giudicati, va bene, grazie, buona serata. Andrea da Vicenza, Andrea. Sì, buonasera. Mi sembra un po' futile parlare delle divise delle no, perché no, perché dopo. No, invece sì, ci interessa, interessa, io non le ho ancora viste, ho solo visto i manifesti pubblicitari e in effetti si vedono cappellino, calze e guanti, qualcuno dice troppo coperte le donne in questo modo. Ma guardi, io prendo molte compagnie aeree per lavoro e si trovano compagnie con le hostess e gli hostess, non so come si chiamino, e gli steward. Ecco, sì, e gli steward vestiti più o meno bene a seconda poi del buon gusto di chi fa le divise. Le ho trovate, ma è un giudizio personale, bruttine, a prescindere poi dalle che coprino il 70%, 30%, 20% del corpo, ma sono brutte nei colori, diciamo dei colori indefiniti. Queste calze verdi sono oggettivamente non sono granché, insomma, vabbè. No, ma insomma è un giudizio personale, però insomma vedendo anche un po' la compagnia di bandiera, penso che una divisa dovrebbe rispecchiare anche lei. Non ci vede nulla di islamico, perché adesso c'è gente che vede l'islamizzazione ovunque, questo spauracchio. Non vedo niente di islamico, vedo qualcosa di brutto. Chi le ha disegnate non le ha disegnate rispettando l'identità del... Pare che sia invece uno stilista italiano o una stilista italiana addirittura. Comunque avevo letto da qualche parte che si trattava di uno stilista italiano. Grazie Andrea. Ecco, a lei. Buonasera. Buona serata. Daniele, da Roma. Buonasera. Proprio ieri tornavo da Milano, io vado avanti e indietro da Roma a Milano, quindi le sto vedendo bene queste divise, al di là del taglio della stoffa che comunque ha dei colori sicuramente non eccellenti, è proprio il vedere tutte le hostess, che alcune ormai le conosco di vista, sia chi è magari non ha una grande mise che chi ha una bella mise, entrambe sono proprio impacciate dentro questo involucro che gli hanno messo addosso. E quindi lei parla di involucro, cioè qualche cosa che mortifica un po' la femminilità. Abbastanza, guardi, veramente tanto, soprattutto quando hanno anche la giacca, già sotto hanno una camicetta un pochino più discreta, ma la giacca veramente con questo collo alla coreana strettissimo fino al collo, il berretto che le copre, ma anche nel camminare, torno a ripetere, sia chi magari è magrissima o chi magari è un pochino più in sovrappeso, sono entrambe impacciate anche nel muoversi dentro l'aeromobile nel momento in cui servono, ecco, i snack, queste cose qui, quindi veramente... Ma lei ha fatto un collegamento con la proprietà dell'Etihad, cioè con la proprietà araba, e col fatto che nei costumi arabi le donne devono essere più coperte? Assolutamente sì. Non in maniera, diciamo, proprio pesante, però comunque è normale che ci siano dei riferimenti abbastanza vicini a quelle realtà. Va bene, grazie Un'altra Daniele. Un'altra cosa che posso dire da qualche secondo, visto che ha parlato dei profughi nell'Expo, noi a Roma abbiamo un esempio che non è proprio dei profughi, per l'amor di Dio, vicino dove lavoro io all'EUR, dove nella vecchia fiera di Roma si sono collocati da tempo una parte dei campi rom che sono stati chiusi nelle periferie romane. Ecco, vi invito a venire a vedere l'EUR, che cosa è diventato da 5 anni a questa parte. Il quartiere più bello di Roma è diventato un immondezzaio. Quindi lei non consiglierebbe a Milano di fare la stessa cosa con i profughi? Non so se i profughi magari potrebbero essere collocati e gestiti in maniera diversa, perché parliamo ovviamente della popolazione rom, un'altra cosa. Però questo è stato sicuramente un episodio, una scelta infelice, torno a ripetere, di un quartiere che è il fiore all'occhiello di Roma, e dal 2010 all'incirca si è collocata questa parte dei campi rom dentro la vecchia fila di Roma, che è molto centrale. I quartieri intorno sono diventati indecorosi. Va bene, diamo la linea alla borsa, ritorniamo subito dopo. 800 24 00 24, parleremo anche con un centurione romano. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. Buonasera Daniele, centurione di Roma, quella vera però. Daniele? Buonasera ragazzi, buonasera a tutti. Abbiamo scelto questa canzone dal sapore molto spagnoleggiante, che c'entra poco con Roma, ma proprio perché diceva il centurion della noce. Hola, si va a travacar. Perché il centurione deve sapere anche le lingue, diciamo la verità. Sì. Per fare questo lavoro. Sì. Chiamiamolo lavoro. Le lingue. Bisogna avere un approccio adeguato verso i turisti. Ecco, perché, questo è importante, questo è importante perché la nostra associazione, perché noi abbiamo fatto un'associazione, non so se voi l'avete presentato. No, ecco, allora diciamolo, perché Daniele è vicepresidente dell'associazione Centurioni Artisti di Strada. Sì, vero? Cosa siete? Il volto umano, diciamo l'immagine legale presentabile dei figuranti abusivi, dei centurioni? No, sinceramente lo vorremmo diventare, perché all'epoca, fino a 6 mesi fa, 7 mesi fa, prima del decreto di Tronca, erano almeno una 50-60 centurioni per tutta Roma sparsi. Invece? E questo non andava bene. Erano troppi, adesso troppo adesso erano tantissimi, ma di cui ognuno era una pecora smarrita. Adesso la minima parte dei centurioni hanno fatto un'associazione di cui sono vicepresidente. E quanti siete riuniti in questa associazione? Adesso siamo diventati 17. Sì. Tutti abbiamo portato dei carichi pendenti al nostro avvocato. Che cos'è che avete portato? Scusa Daniele, dei carichi pendenti abbiamo fatto, la richiesta dei carichi pendenti, dove noi non abbiamo nulla a che fare con quello, la storia che c'era prima. Cioè non avete denunce? Non avete denunce, no, voi 17 personalmente? Denunce. Perché quali sono le denunce che possono, che capitano? Molestie, fastidio, furti? Cosa succede con gli abusivi che fanno i figuranti e che a volte ci provano coi turisti? Non lo so sinceramente se ci provano, perché ognuno ha le sue postazioni. E almeno io parlo per me e per i miei soci, non ci sono mai state molestie. Non c'è richiesta di denaro. Mi scuso con la voce, ma sono un po' influenzato. Beh, come non c'è richiesta di denaro? Qualcosa vi fate dare per fare la foto? No, si fa offerta. A offerta. Poi c'è il turista che ti dà 50 centesimi, il turista che ti dà un euro. Il turista giapponese sovrappensiero che ti dà 20 euro, magari esiste? Ma capita. Magari fosse vera questa cosa. Da parte nostra dell'associazione questo non esiste. Vabbè, poi anche questo se arrivasse una mancia di 20 euro, mica la butti via. Ben venga, anche perché dietro a una foto c'è uno spettacolo, c'è stato un sorriso portato al turista, non c'è una richiesta, ma c'è solo un'offerta, poi di solito sono loro che decidono, non c'è richiesta, perché la richiesta è reato, specialmente nella nostra mentalità dei 17 centurioni che siamo. E quant'è il massimo, Daniele, che ti è capitato? Sinceramente, dai, puoi dirlo, che ti è stato dato? No, è capitato, 20 euro, ma una famiglia di 5 persone, che poi si va a fare foto, 5 foto, 20 euro, tu dici, non è neanche tantissimo. No, non so mai 5 foto, non so mai 5 foto. Sono uno dice sempre 2-3 foto, ma poi ci stanno sempre almeno a persona. Può capitare, perché a noi ci capita di fare, per dire, una famiglia di 4 persone, fare 4-5 foto per uno. Sì. A persona, e poi tutta la famiglia, perciò non si parla di totale foto, ma si parla di tante foto. Si parla di una foto inchinata, una foto da Cesare, una foto con l'elmo. Ah, ti devi anche cambiare di abito per No, fare. No, noi passiamo l'elmo, diamo la corona alle persone che poi si fanno la foto con voi. Sì, ma è faticoso fare, un po' faticoso fare. È faticoso perché fa molto caldo. Sì, lei pensa che noi, la maggior parte di questi 17, diciamo, centurioni che provano a voler mettersi regola, perché poi la cosa più importante è pagare le tasse. Noi chiediamo di pagare le tasse. E questa è una cosa che in Italia non chiede nessuno. Cioè, siete praticamente rimasti voi e le prostitute a voler pagare le tasse. Perché nessuno. No, le prostitute no, con tutto rispetto per loro, no. Anche loro dicono regolarizzateci, così poi pagheremo le tasse. Cioè, siete rimasti voi due uniche categorie in Italia che chiedono di pagare le tasse, gli altri chiedono di non pagarle. È strana questa cosa, è vero? Sì, è strana. Fa un po' ridere. No, però la differenza è che noi non portiamo malattie, magari. Bisogna essere. Cioè, non andiamo con tutti. Però scusa, Daniele, la questione io ho capito è questa, cioè c'è molta concorrenza tra di voi, perché le postazioni... No, tra di noi no, non aspetta, c'è aspetta, non tra voi 17, io dico in generale, perché dove sta il problema? Non ci sarebbe nessun problema, io credo, se ci fossero pochi abusivi che vanno lì a farsi la foto, a farsi dare la monetina, eccetera. Il problema succede quando tu sommi gli abusivi, i venditori abusivi, i figuranti abusivi, decine, 20, 30, 40, 50... ma anche molti di più, perché a quello che ho capito io ti sto chiedendo, c'è concorrenza, nel senso che comunque la postazione rende, per cui se un giorno tu non vai e viene un altro al posto tuo, può farsi lui l'incasso di giornata, e possono essere anche diverse decine di euro. Bravissimo, e noi proprio questo abbiamo fatto, noi abbiamo fatto un'associazione per distinguerci dagli altri centurioni. Però come si fa? Cioè, chi è prima arriva meglio alloggia? No, forse... Da sono 20 anni che viene fatto questo lavoro, c'è una forma di rispetto, perché normalmente che c'è una forma di chi è arrivato rispetto. Prima è diritto che lavori. Se io venissi a Roma e volessi mettermi a fare diritto. Se tu vuoi domani, per dire, lavorare con noi, puoi venire tranquillamente, se fai parte di un'associazione. Noi chiediamo di fare un concorso dove noi possiamo pagare le tasse. Ecco, e questa è la cosa interessante, questa è la richiesta che voi state facendo. Noi vogliamo pagare le tasse, noi non c'entriamo nulla con quello che è stato. Va bene, ho capito, Daniele, perché... il passato, gli abusivi, non c'entrate nulla, ma il concorso, no? È curioso. Come potrebbe essere strutturato un concorso per fare il centurione? Cioè, che domande ti devono fare? Che abilità dovresti dimostrare? Cioè, ti hai pensato nella vostra sicuramente proposta? Sicuramente sì, io nella mia testa ci ho pensato. A parte tutto, bisogna essere sempre composti, puliti e non importunare i turisti. Perché se noi calcoliamo che se andiamo in Spagna, troviamo una via che si chiama La Rambla, dove ci sono tutti gli artisti di strada, e noi andiamo a Mirabilandia, troviamo i pupazzetti che fanno le foto, troviamo a The Hour Disney, Topolino, Minnie e tutti. Noi non siamo logicamente Topolino e Minnie. Noi siamo un'immagine importante, perché il Colosseo è il monumento più importante e più bello del mondo. E noi, ripeto, vogliamo andare a metterci in regola proprio per non creare problemi e non far venire persone che magari hanno i carichi pendenti pesanti, che magari... Però scusa, io continuo a non capire una cosa. Tu immagini, cioè soldi. Voi immaginate, voi associazione, che avrete un dialogo poi magari col nuovo assessore, speriamo, con la giunta, eccetera, speriamo. Dal vostro punto di vista, immaginate una sorta di sanatoria, cioè chi c'è adesso viene preso in considerazione, viene iscritto a questo albo, questa potrebbe essere una soluzione? potrebbe essere un'ottima soluzione, giusto, con poi più un bando dove possono entrare anche persone, perché io non sono nessuno per decidere che tu non puoi venire o tu possa venire. Ah, questo bisogna è verissimo, però si potrebbe creare, scusa, si potrebbe creare il paradosso che si fa un concorso per centurione, per figurante, sì, di fronte al Colosseo, Monumenti Storici di Roma, un concorso vero, perché magari, sì, la Raggi vi prende sul serio davvero, chi lo sa, chi può dirlo, potrebbe succedere. E poi magari tu 5 Stelle. E poi magari, scusa, tu Daniele, che da quanti anni fai questo? Io sono 6 anni, sono 6 anni e vengo da una realtà che a me sinceramente mi ha distrutto, perché io ero un rappresentante di... Vabbè, di adesso a parte questo, tu da 6 anni fai il centurione, ci sono, sì, altri che lo fanno da 20 anni, magari facciamo il concorso e voi che siete lì da anni lo perdete perché arriva qualcuno di più preparato di voi, magari mettono che bisogna parlare davvero le lingue. Tu le parli le lingue? Ci può stare, io diciamo che le parlo maccheroniche, perché il turista vuole la lingua così, non vuole l'inglese perfetto, non vuole lo spagnolo perfetto, vuole sentire lo spagnolo con la cadenza romana, perché il turista vuole sentire il romano, vuole sentire il latino, vuole sentire senatus, populus, e quae romanus, moriturite saluta, vuole ridere, e mettiamoci nei panni del turista, io quello, perché noi come associazione quello... Ci mettiamo nei panni del turista. Se io andrei a un posto al di là del mondo, in Australia, e troverei una persona che mi tira, che mi vuole trovassi Daniele, trovassi, non troverei, scusa se ti correggo, però, ecco, vabbè, che visto che parliamo di concorso, dai, così ci cominciamo a mettere avrei paura. Invece magari con delle persone che sono regolarizzate, no, che ma questo sicuramente la regolarizzazione, però intanto però ti voglio chiedere, in questi mesi di ordinanza nessuno è andato a lavorare o qualcuno è riuscito ad andare comunque passando? Di noi 17 no, nessuno. Purtroppo nessuno, abbiamo cercato di intraprendere altri lavori dove ci è andata male. E quindi sei rimasto senza stipendio per quanti mesi? 7 mesi. Sette mesi con 2 bambini e una famiglia a carico. E cosa hai fatto? Hai inventato qualche altro lavoro? Hai fatto qualcos'altro? Mi sono arrangiato un po' con la mamma, che ha una licenza, regolare, e dei banchi, e prendevo la giornata. Però in passato tutte le altre giunte più o meno hanno quasi sempre chiuso un occhio, poi è arrivato il disastro di Roma, il commissariamento Tronca che vi ha preso subito di mira l'ordinanza. Adesso cosa ti aspetti dal sindaco del Movimento 5 Stelle? Pensi che possa andare avanti coi divieti, perché ha detto che ha già firmato la nuova ordinanza? Ha firmato la nuova ordinanza perché logicamente la Virginia Raggi non è una persona stupida, ma è una persona molto intelligente, io la reputo, perché anche da come si è presentata, io so che 5 Stelle e la Raggi sono per la legalizzazione dei lavori, anche perché siamo famiglie romane, basta dire che sono famiglie rumene, sono stranieri, perché tanti ci massacrano su questo lato. Non mi sembra di parlare rumeno, che nulla toglie ai rumeni, ci mancherebbe, tanto di rispetto per tutti i popoli, però la maggior parte di questa associazione, la maggior parte, 17 persone che stanno in questa associazione, sono tutte famiglie romane. Va bene, tutti. Va bene, vedremo Daniele, in bocca al lupo. E noi a Roma. Cosa, sì. Speriamo che la Raggi ci accolga per parlare, presentargli il nostro progetto, perché poi ecco, sì, il discorso che facevi voglio finire così, perché il discorso che facevi tu delle postazioni, pensa che noi chiediamo anche le postazioni rotative, che ogni 2 ore i centurioni smontano, fanno uno spettacolo per i turisti. I turni praticamente? Girare. Sì. Come fanno alla Rambla? Alla Rambla c'è l'artista di strada, sta 2 ore a un posto, sì, poi si gira, va in un altro posto. Va bene, vedremo. L'ultima cosa, e poi ti saluto, che mi ha fatto molto piacere parlare con voi e con gli ascoltatori. E una cosa importante che? Che te sei dimenticata. Mi sono dimenticato. Va bene così, Daniele, non ti preoccupare. Ciao, in bocca al lupo a Roma, soprattutto. Il lupo, specialmente a Roma. La lupa. E poi voglio dire agli ascoltatori che è vero che può sembrare assurdo tutto quello, una parte di quello che ha detto Daniele, l'albo, dei centurioni, le postazioni rotatorie, però non è tanto diverso da quello che si fa per esempio a Milano. Se tu sei un artista di strada, vuoi suonare la musica, devi andare su una piattaforma web, ti prenoti il tuo spazio, ci sono dei posti dove si può andare. Diciamo è l'artista di strada 2.0, mentre un tempo c'era, prevaleva lo spontaneismo, nel bene o nel male, adesso prevale l'organizzazione, nel bene o nel male. Qualcuno dice che è peggiorato, qualcuno dice che è migliorato, c'è un controllo però, si sa chi va, chi c'è in quel momento lì, non pagano le tasse perché quel tipo di remunerazione non è previsto che paghi le tasse, e questo è diciamo una forma minima di trasparenza, di regolarizzazione, almeno il comune sa chi c'è in quel momento lì a suonare, nome e cognome, si presenta anche un documento, e questo potrebbe essere il modello adottato anche a Roma, così propongono i centurioni, per la questione dei figuranti abusivi. Vedremo se la sindaca Raggi andrà avanti su questa strada oppure no. Andiamo invece noi avanti. Ci abbiamo una pubblicità? 30 secondi? No, non ce l'abbiamo. Paolo da Verona, buonasera. La mia osservazione è banalmente legata al caso Turchia. Sì. Secondo me Erdogan sta approfittando del fatto che ha trovato l'Europa con le braghe calate per il discorso migranti e sta cercando di prenderci per il collo. Sì. Nella sua condizione, è un discorso che faccio con te, Simone, che non mi sentirei mai di fare con Cruciani, perché ormai la con la chi lo vuoi fare? Scusa, non ho capito. Lo faccio con te, non lo farei mai con Cruciani a quest'ora, perché ormai la zanzara è solo provocazione. Erdogan o è responsabile del colpo di Stato o è responsabile della repressione, in entrambi i casi. Secondo alcuni di tutti e due, cioè ha fatto uno per poi consentire l'altro. Assolutamente, pensa solo al fatto che... No, io non sono tra quelli, personalmente non credo si possa arrivare fin lì con questa interpretazione che è molto tirata per in là. I capelli? Sì. Ma sì. Ha chiuso due ponti a Istanbul, sì. Quando la capitale è Ankara e Erdogan era in vacanza al mare. Se devi cercare di sovvertire lo Stato, non lo fai con il manuale di come si facevano i golpe 50 anni fa. No, no, ma siamo comunque... tutti d'accordo. Però bisogna ricordarsi, Paolo, che i militari, Erdogan tra i militari aveva molti nemici, perché li ha marginalizzati, gli ha tolto di potere, ha creato un super reparto di polizia che ha preso una parte del potere che avevano i militari, quindi che ci fosse una parte dei militari che l'avevano su con lui, questo era vero, è plausibile, storia prima del colpo di Stato. L'avevano poi, con lui perché sì. Lui aveva dimostrato di avercela con loro, quindi sì. Lui non ha fatto il colpo di Stato. Lui ha solo cercato una scusa per la repressione. Sì, questo sono d'accordo. Lui era fuori dalla capitale. Se vuoi fare un colpo di Stato, la prima cosa che fai, vai a cercare di mettere, in questo caso Erdogan, il dittatore, nella condizione di quindi, non poter muovere. Quindi il succo del ragionamento, Paolo, qual è? Quindi non sarebbero dovuti andare a Istanbul, sarebbero andati a prendere lui. Quindi è tutta una finta, è solo un modo per mettere in condizione l'Europa di accettare la sua dittatura. Va bene, grazie Paolo, grazie per questa interpretazione. Livio da Roma. Pronto, buonasera. Buonasera Livio. Senta, io ho ascoltato il centurione, no? Sì. Però voglio dire questo, io sono stato testimone un paio di anni fa, stavo con un nipotino di 7 anni, e l'ho portato lì a vedere il Colosseo e tutto quanto. A un certo punto ho visto i centurioni tutti quanti e importunavano qualsiasi persona passava per fargli la fotografia, punto primo. Non come diceva Daniele, che stavano lì in un angolo aspettando la mancia. No, ma c'è da scoperchiare veramente. Però guardi, io non so, adesso io non voglio dire che quello che ci ha detto Daniele è tutto vero, però credo che ci sia qualche differenza anche all'interno di quel mondo lì. Quello che ha visto lei sicuramente esiste, però ci saranno sicuramente anche delle persone che non molestano nessuno, che stanno lì a farsi fare la foto. Magari, No, l'ho visto. Tutti molestatori, centurioni, tutti. Sono stato una mattinata con mio nipote e ne ho visto di tutti i colori. Praticamente a un certo punto c'è stato una coppia di turisti che per fare la fotografia con la macchinetta loro volevano 50 euro. Alla fine questi hanno litigato tutto quanto, alla fine si sono accontentati. No, ma questo è vero, io non sto dicendo che questo... Aspetti, mi scusi, No, no, ma è stato scritto dai giornali, ci sono anche state delle denunce. Loro dicono che sono tutte persone che non hanno mai avuto una denuncia. Io ho avvisato la polizia, sì, o i carabinieri, adesso non mi ricordo che camionetta c'era, i vigili urbani, praticamente se ne sono fregati altamente. Dopo 10 minuti, sì, quando avveniva questo, giusto per capire, quanti anni fa o recente? Poveretto. Quando? E gliel'hanno sequestrati. Quando ha questo? Capito? Quando? Quando sequestrati. Questo Livio, quando avveniva questo? Questo un paio di anni fa. Ecco, un paio di anni fa. Va bene, grazie Livio, buona serata. 2 anni fa, adesso non lo so, forse magari le cose sono cambiate, perché sicuramente in passato sono stati chiusi tutti e due gli occhi su quella situazione che Livio ha descritto che esisteva. Adesso, non lo so, ci sono state queste ordinanze, ci sono le multe, ci sono le sanzioni. Probabilmente questa descrizione è un po' meno realistica, forse, non lo so. Chiediamolo ai romani, a tutti i romani. Daniele da Roma sempre, buonasera. Ciao, buonasera. Ciao. Sui centurioni è ovvio che se si vanno a regolarizzare ci guadagnano tutti, la comunità, perché potrebbero pagare le tasse e perché sarebbero loro stessi i primi, prendendo per buono quel P17-20 che diceva prima Daniele che è intervenuto, sì, fossero persone in gamba, perché sarebbero loro i primi a fare da controllo contro eventuali altri abusivi. Questo sarebbe abbastanza evidente. Quindi però io mi resta sempre il dubbio, no, se sarebbero solo loro a farlo oppure se potrebbero essere... Se qualcuno definisce che devono essere un tot, come esattamente come gli altri ambulanti, sì, con licenza, che sono in tutte le città d'Italia, che hanno licenza per vendere e fare qualsiasi altra cosa, sono un numero predefinito, questi stessi sono i primi che fanno da sorveglianza per gli abusivi. Sì, insomma, quindi, non si capisce se col nuovo albo resterebbero solo loro, quindi una sanatoria sarebbe, oppure potrebbero entrare anche altri, nuovi. Questo è un po' il dubbio. Comunque, Daniele, volevi dire anche qualcos'altro o solo sul centurione? Sulla l'Italia, sì. Ma voi forse non vi ricordate le vecchie divise? Sembravano nonna papera. Sì, è vero. Dai ragazzi, le nuove sì, sono un po' chiuse, ma perché probabilmente sono state presentate anche nel periodo invernale. Io prendo una 50 di voli all'Italia all'anno e me le ricordo molto bene, come quello che è intervenuto prima, quasi le conosco di persona molte. Sì, sono un po' più stretta, ma sono molto più sensuali, molto più eleganti. Sono più sensuali, quindi addirittura colpo, sì, di scena, colpo di scena. Mettiamo agli atti un voto per le divise che sono addirittura sensuali, quindi non ci sarebbe niente di mortificante per il corpo femminile, secondo te, in queste divise, anzi. Come ti confermo, italiano, l'ha progettata anche per, sì, tutti gli altri operatori dell'Etihad, non solo dell'Alitalia. E quindi, insomma, no, secondo me sono molto molto meglio rispetto alle vecchie. Va bene, perfetto, grazie Daniele, ciao, buona serata, ciao. No. Omero da Cagliari. Sì, salve. Dunque, io volevo intervenire sempre sulle divise all'Italia. Sì. Per mia esperienza posso dirvi che forse sono un po' vintage, un po' ingombranti, ma niente di male, devo dire. Lo stilista in italiano si chiama Ettore Bilotta. Okay. Oltretutto, ma di islamizzazione io sinceramente non vedo traccia, anzi quelle che possiamo vedere su certi voli di paesi islamici forse possono essere anche un po' più scoperte, a parte il foulard. La vera divisa brutta probabilmente è quella dei maschi, questa sì. Va bene, mi sembra che tra le voci degli ascoltatori la teoria dell'islamizzazione perda 3-1, 4-1, sì, che molti non hanno notato. Sentiamo. Allora, le donne, sì, forse per questioni di istruzione, tengono i guanti, sì, e siccome molte carte d'imbarco adesso sono fatte in maniera elettronica, anche quando su smartphone o su tablet, sì, i guanti non funzionano come touchscreen, dunque di conseguenza devono scorrere. Ah, hanno i guanti ma non possono scorrere lo schermo del touchscreen, questo è un impaccio. Problema veramente pratico, dunque questo andrebbe risolto, fermo restando che esistono anche dei guanti touch, volendo. Che lei produce, Omero, lei in realtà è un produttore di guanti touch, dica la verità. Ha chiamato solo per questo. Grazie, buona serata, ciao. Andiamo con Mauro da Treviso. Un minuto per chiudere, però, perché abbiamo quasi finito. Sì, buonasera. Buonasera, Mauro. Spero di essere breve. Allora, regolarizzare i centurioni, ok, però questo non deve escludere controlli serrati, perché per la prostituzione, qualora si legalizzasse, un commercio, diciamo, clandestino ci sarebbe sempre comunque, anche perché in Toscana non è che ci sono 5 persone, c'è una bolgia praticamente infernale. Seconda cosa, ci sono varie città, tipo Londra con Buckingham Palace, anche Praga, dove ci sono davanti alle strutture storiche, degli spettacoli organizzati a orari precisi, dove chi lavora lì ovviamente ha uno stipendio ed è figurante in un qualcosa organizzato, quindi qualsiasi cosa al di fuori di quello sarebbe più facilmente individuabile. E basta, va bene. Tutto qua, insomma. Va bene, grazie, è tutto anche per questa sera, direi che abbiamo finito, ci risentiamo domani 18:30-20 con Si può fare. Ciao a tutti, a domani, buona giornata.